24 di Giovanni Minoli. Avviciniamo il mondo, ha detto il presidente della Repubblica di Panama, Juan Carlos Varela, inaugurando domenica scorsa il nuovo canale di Panama, che permetterà ai giganti del mare di passare dall'Atlantico al Pacifico senza più essere costretti ad affrontare la circumnavigazione del Sud America. Un enorme risparmio di tempo e di denaro, un'impresa mastodontica che trasforma le rotte del commercio mondiale, un'opera da 900 anni uomo di progettazione, che è stata realizzata da un consorzio guidato da Salini Impregilo. Ma com'è il nuovo canale? Marcello Apicella, ambasciatore italiano a Panama. La storia del canale di Panama sarà una storia di orgoglio per Panama, ma sarà una storia d'orgoglio per tutta l'Italia. Giuseppe Quarta, amministratore delegato del consorzio Gruppo Unido por el Canal. I numeri di quest'opera fanno impressione. Raramente uno vede un progetto dove si scavano 50 milioni di metri cubi di roccia, dove si gettano 4 milioni e 200 mila metri cubi di calcestruzzo o dove si installano 270 mila tonnellate di ferro. 270.000 tonnellate di ferro, cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo costruito 27 Tour Eiffel. Un'opera che non ha paragoni, ciò che rende Panama speciale è il suo canale, questa autostrada del mare che taglia in due un continente per unire il mondo. Il primo a pensarci fu Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, è il 1534. Con un editto imperiale ordina al governatore di Panama un progetto per una possibile via d'acqua fra gli oceani. Nel regno dove il sole non tramonta mai serve una scorciatoia navigabile tra l'Atlantico e il Pacifico. L'idea è buona, molti sono gli studi, ma nulla di fatto. Se Dio avesse voluto un canale lo avrebbe fatto, conclude suo figlio, erede al trono, Filippo II. È il 1869, Parigi festeggia l'eroe di Suez, Ferdinand de Lesseps, ma il grande francese già guarda a Panama per un nuovo successo, la costruzione di un canale a livello del mare. La Francia lo segue. Nel 1876 la Società Geografica di Parigi dà il via libera. I francesi ottengono dal governo colombiano una concessione per 99 anni sul futuro canale. 73 chilometri la lunghezza, scavi previsti 120 milioni di metri cubi. 10.000 uomini la forza impiegata, 6 anni il tempo stimato. I lavori iniziano nel 1881. Sotto piogge torrenziali, paludi, umidità e sole a picco su una giungla impenetrabile, abitata da due killer micidiali e quasi invisibili, le zanzare della malaria e della febbre gialla. Il progetto si rivela una debacle da migliaia di morti, perdite per 287 milioni di dollari e Lesseps incriminato per frode e cattiva gestione. È la fine di un sogno e la mano passa agli americani. Nel 1904 partono i cantieri. Il progetto è nuovo, non più un canale a livello del mare, ma un sistema di chiuse per superare il grande ostacolo, il fiume Chagres. Dall'oceano le navi entrano nelle chiuse, si sollevano di 27 metri fino al lago Gatun e ridiscendono nell'oceano. Il gioco è fatto, si viaggia sopra la giungla. Roosevelt in persona visita i cantieri. Il 15 agosto 1914 alle 7:10 minuti la nave portacemento Ancon al comando del capitano John Constantine taglia il nastro e salpa per il viaggio che la porta nella storia. 100 anni dopo la sua inaugurazione il canale rilancia la sfida e si fa in due. Un referendum popolare nel 2006 dice sì alla nuova via d'acqua, più profonda, più larga, più veloce per le navi del futuro, le post-Panamax. Questa volta il merito dell'impresa spetta all'ingegno europeo, al Gruppo Unido por el Canal, un consorzio di eccellenze. Sacyr spagnola, specialista in grandi opere, Jean de Nul, belga, numero uno mondiale del dragaggio. Salini Impregilo, leader mondiale nei progetti idraulici. Sono loro ad aver realizzato il nuovo canale, ingegneri, tecnici, operai, come pionieri, alla scoperta di nuovi confini della tecnologia, della meccanica, dell'ingegneria, oltre le grandi opere, il nuovo canale di Panama. Ilia Marotta, autorità canale di Panama. Perché serviva un nuovo canale? L'autorità del canale di Panama ha deciso di ampliare il canale esistente. C'era molto traffico, molte navi. Le navi stanno diventando sempre più grandi e allora noi non abbiamo bisogno che aumenti il numero di navi che transitano. Abbiamo bisogno che passino navi più grandi. Roberto Albisetti, Banca Mondiale. Oggi possono passare navi che al massimo portano 4.500 contenitori Teus, che sono i contenitori da 20 piedi. Con il nuovo canale, con l'espansione, passeranno navi con carico fino a 14.000 Teus. Più merci, più soldi, la Banca Mondiale insegna. Il contributo del nuovo canale aumenterà il valore per Panama nell'ordine di 300-400 milioni di dollari all'anno. Pietro Salini, CFO di Salini in Pregilo, questo canale è davvero un'opera che cambierà il commercio mondiale? Beh, lo raddoppia praticamente, il passaggio di quello che andava dall'Atlantico al Pacifico, passava dal 3% del commercio marittimo, che valeva circa 270 miliardi di dollari di merci, al 6% del valore degli scambi commerciali via mare, quindi insomma un passaggio forte. Ecco, ha avuto paura in qualche momento che gli americani potessero strapparle la commessa? Beh, questa è un'opera unica e strategica, quindi c'era il rischio. Del genere, le difficoltà non sono l'eccezione, ma sono quello che succede normalmente, certo. Quindi abbiamo affrontato insieme a tutti i nostri partner, alle autorità del canale, e ci siamo, anche se confrontati in maniera dura a volte, abbiamo superato le difficoltà. Ma avete vinto perché il vostro progetto che cosa aveva di più? E aveva un'idea, un'intuizione, che era quella di riuscire a riutilizzare l'acqua dolce del canale, perché il canale vive su un lago, che è questo lago Gatun, che è una riserva enorme di acqua dolce, e quindi diciamo ogni passaggio delle navi, sia a entrare che a uscire, avrebbe potuto portare via questa preziosissima risorsa. Certo. E invece voi lo riciclate? Ha avuto l'idea di riciclare l'acqua. Perfetto. E noi infatti ricicliamo il 60% dell'acqua che utilizziamo e la rilasciamo lì, quindi riusciamo a fare un progetto che è ecologicamente molto più interessante. Interessante. Ma tra Atlantico e Pacifico ci sono 27 metri di dislivello, vuol dire che le navi salgono e scendono di 27 metri? Sì, è come se fosse un enorme ascensore che solleva queste navi in tre alzate ogni volta, sono tre ascensori che portano la nave su ogni volta di 9 metri, e ogni volta che la nave viene alzata entra nell'altra quindi 9, 18, 27 insomma. 27 metri, arrivano al livello di questo lago che è al centro diciamo del canale, fanno tutto il lago navigando dentro al lago e poi riprendono l'ascensore e riscendono dall'altra parte. Fantastico. Sia in Atlantico che in Pacifico. E quanto sono grandi queste vasche? Sono 360 metri in questo momento, le nuove vasche che accolgono queste supernavi, che sono costruite appositamente per poter utilizzare questa nuova importante infrastruttura. Ecco, ma queste grandi paratoie che aprono e chiudono le vasche, cioè le porte dell'ascensore, dove sono state costruite? Sono costruite in Italia, anche queste sono tecnologia italiana. E cioè sono arrivate dall'Italia a Panama? Sì, sono andate via nave, anche questo che è l'unico sistema per poterle trasportare. Certo. Sono enormi e gigantesche strutture di acciaio, che sono lunghe 57 metri, alte da 23 a 33 metri, larghe 10, pesano più di 4.000 tonnellate, quindi sono state messe ognuna su una nave che ha raggiunto prima Panama, poi utilizzando il vecchio canale sono state portate dentro e messe lì in posizione per poterle poi portare con questi giganteschi carrelli fatti apposta con 500 ruote guidati dal joystick e fatte entrare in una manovra straordinaria all'interno dei loro alloggiamenti. Senta, ma avete vinto un premio Nobel insomma sui mercati internazionali con questa operazione? Quasi. Certo, ci dà una grandissima soddisfazione quella di essere adesso noi lì con la nostra bandierina. Certo. E con il caschetto di italiani in questa bellissima realizzazione. Ecco, voi siete un'azienda italiana con un fatturato però quasi tutto fatto all'estero. Per quanto resterete italiani? Noi siamo italiani, abbiamo il cuore in Italia, abbiamo la nostra sede in Italia. Speriamo di rimanere qua e di avere anche in Italia invece un importante sviluppo. Ci sono molte infrastrutture di cui questo paese avrebbe bisogno. Siamo qui per cercare di farlo. Senta, si susseguono le grandi acquisizioni di Impregilo. Nel 2014, nel 2015, il numero uno delle autostrade americane è la Lane Industries. La sua azienda continua a crescere, ma sempre più grandi è una necessità? Beh, diciamo, la dimensione in questo mestiere è indispensabile, perché facciamo progetti sempre più grandi, e quindi per poter gestire i rischi e per poter avere l'investimento in tecnologia, in competenza, poter accogliere i grandi talenti, bisogna essere grandi. E poi soprattutto negli Stati Uniti bisogna avere un'azienda locale come in molti altri posti del mondo, e quindi la necessità di fare queste acquisizioni non è un fatto di bellezza, è un fatto proprio di necessario per lavorare. Necessario per lavorare. Senta Salini, vi siete appena aggiudicati un contratto di 955 milioni di dollari in Kuwait e il titolo stesso giorno è salito del 6%. Soddisfatto? Ma abbastanza soddisfatto, perché chiaramente il lavoro che abbiamo preso è ancora interessante e bello. Io stiamo facendo un piano industriale dell'azienda di lungo termine. Mm. È un'azienda che vive di progetti naturalmente, che durano 4-5 anni, certo. E quindi naturalmente la nostra testa è già verso, è già avanti, è già oltre questo ecco, ma questo tempo. Essere questo progettare a lungo termine sul titolo ha degli effetti oscillanti, perché è capitato anche che al mercato non è piaciuto, che non è stato capito bene il vostro progetto, no? Ma non è quello, noi abbiamo avuto quest'anno purtroppo qualche ritardo nella partenza di progetti, soprattutto in Italia, che hanno stentato a decollare, e questo ha avuto un certo effetto sui ricavi attesi dagli analisti, e questo naturalmente ci è stato fatto pagare dagli azionisti, che sono principalmente dei fondi e degli azionisti. Certo, che vogliono il rendimento subito. Vogliono il rendimento subito. Certo, sì. In Africa, in Etiopia, la vostra seconda patria, continuate a costruire dighe. Qual è la più importante adesso? Gibetre? Stiamo facendo questa diga, il Gibetre lo stiamo consegnando ed è praticamente finito. E adesso stiamo lavorando su questa grande diga sul Nilo, che si chiama GERD, Great Ethiopian Renaissance Dam, che è la più grande diga d'Africa, ed è la più grande diga del mondo in costruzione. Ecco, però per Gibetre voi siete stati accusati dagli ambientalisti di distruggere gli assetti territoriali e gli interessi delle popolazioni. Sono delle critiche forti che vi sono venute. Voi cosa rispondete? Sono giuste? Hanno un fondamento? Noi diciamo che la gente che vive in quelle condizioni che gli ambientalisti stanno difendendo sono popolazioni che hanno una vita media molto bassa, 25-30 anni, e quindi necessitano anche loro, come gli altri, e vorrebbero avere un futuro diverso di quelli di essere semplicemente delle popolazioni da visitare in termini turistici, in cui la mortalità... Ma le critiche, quindi? E così altre. Invece noi abbiamo fatto dei progetti che sono sostenibili, abbiamo sviluppato... tutto. Quindi rifiuta queste critiche lei? Ambientale sì, sono critiche molto semplici, ma poi anche prive di contenuti, quindi sostanzialmente invece noi crediamo nel progresso, in un progresso sostenibile, stiamo sviluppando queste dighe in modo che siano compatibili con lo sviluppo. Senta, però le grandi opere in tutto il mondo in generale cambiano il paesaggio e cambiano la vita delle popolazioni, sentite la responsabilità di questa trasformazione? Ma sì, questo è il nostro ruolo, quello di riuscire a fare delle cose che cambiano la vita delle persone in meglio. Sì. In fondo le piramidi di oggi sono le vostre costruzioni che restano. No, perché le piramidi sono opere faraoniche e quindi sono opere destinate a celebrare la vita di una persona, e quindi era quello che in sostanza il lascito nella storia del regnante. Le nostre opere sono opere che invece sono fatte per le persone. Sì. Sono trasporti, sono acqua, sono energia, sono monumentali. Senta, nel mondo delle grandi opere e in quello del petrolio a livello globale la corruzione è molto forte. Voi l'avete incontrata in che zona di più? Ma noi diciamo come dimensione di azienda la corruzione non la incontriamo più. Cioè siete fuori oramai da quel rischio? Siamo fuori da questo rischio, abbiamo delle procedure e dell'anti-bribing e l'anti-corruption sono parte oramai della nostra cultura, quindi per noi come azienda questo fenomeno non esiste più. Senta, se lei dovesse riassumere in una parola il segreto del vostro successo, Salini, lei cosa direbbe? Ma direi la tenacia, il saper fare, la passione nel fare le cose e quello spirito di avventura che in qualche modo contraddistingue gli italiani, che vanno in giro, li trovi dappertutto e certo. Si ingegnano sempre di riuscire a fare qualche cosa. Senta, in Italia voi siete coinvolti in poche cose, l'ha detto anche prima, e anche rallentata. Una, la costruzione della TAV. Secondo lei, dopo la posizione del neo sindaco di Torino Appendino, come andrà a finire? Che si farà, perché serve all'Italia, serve all'Europa. Ma lei ha detto di no, che non la vuole. sì, però cambierà, diciamo, idea, penso, secondo lei? Penso che sia, ci sia la necessità di spiegargli bene come sono fatte le cose e di che cosa servono queste. Quindi pensa che cambierà idea? Io mi auguro di sì. Senta, a proposito di opere appese che aspettano da tempo, appese al filo, il ponte sullo stretto si farà? Io spero proprio di sì, perché è un'opera strategica per il Sud, è un'opera che porta il collegamento in tutta Italia, da Palermo fino al nord dell'Europa, è un'opera che serve per rilanciare quello che è un progetto di vita del futuro del paese e soprattutto porta molti soldi di beneficio indipendentemente da quanti se ne spendano per il semplice trasporto, quindi è un'opera che ha un suo ritorno, termini di denaro per il paese. Senta, Salini, un'ultima domanda. Un giornale qualche tempo fa titolava "Dove osano i Salini?". Ecco, dove osano i Salini per i prossimi 10 anni? Adesso più che osare, noi ci concentriamo nel fare quello che dobbiamo, che è dare soddisfazioni agli azionisti, realizzando il nostro piano industriale e facendo una grande azienda che è leader nel mondo di importanti infrastrutture. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Allora, Pietrangelo, che ci fai sentire? Arriva. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Beh? C'era un bimbo oggi in metropolitana, provava la parte del duro, solo che chi lo conosce davvero ne leggeva tutta la delicatezza. Provava la parte dell'adulto, iniziava a scrivere le storie degli altri e cominciava coi vicini di sedile. Questi, inteneriti dal ceffo, cantavano a lui tutte le canzoni che lui non aveva mai conosciuto. Ha chiamato Assuranceto Rix, il bardo, ha voluto questa canzone per se stesso, dicendo: non canto più nessuna canzone. I always had that dream like my daddy before me, so I started writing songs, I started writing stories, something about that glory just always seemed to bore me, cause only Mario. Those are really Beh, una bella storia, quella dei Salini. Quella di Salini, questi italiani bella, che mettono belle bandierine. Bella e riduttiva, grande storia imprenditoriale, sì. Come molte di tanti imprenditori italiani che girano per il mondo e fanno queste cose. Vabbè. Sono gli italiani migliori, Giovanni. Va bene, che ci racconti oggi? C'è tanta roba, direi. Cranberries, bisogna avere un po' di rispetto per un grande gruppo irlandese. Perché? Perché, Giovanni, la Brexit è una cosa meravigliosa. Dopo 3.000 miliardi di dollari bruciati in due sedute di borsa, dopo che la sterlina è crollata al minimo storico da 31 anni, per due volte, pensa, ha fatto il record dei 30 anni e il record dei 31 anni, al minimo ovviamente. Dopo che la Scozia sta cercando la sua indipendenza dal Regno Unito. E dopo che dal campionato europeo di calcio sono riusciti a farsi buttare fuori dall'isola d'Islanda con soli 330.000 abitanti, nessuna tradizione calcistica, e quindi c'è una grande storia che in realtà è la storia del grande errore degli abitanti dell'isola d'Inghilterra, abbiamo un altro episodio meraviglioso, quasi un contrappasso dantesco, perché gli uffici consolari dell'Irlanda sono letteralmente sommersi di richieste di inglesi che vogliono il passaporto irlandese. 6 milioni di britannici hanno i requisiti per chiedere quel passaporto, un passaporto che gli concede le porte dell'Europa. Beh, non male. Quindi, ma Brexit dalla porta, re-entry dalla finestra irlandese, niente male, niente direi. Male come insuccesso. Esatto. Salamino, Pietrangelo. Popolo bue, hai votato giusto appunto Brexit, adesso giusto. Pedala. Sbagliato. Oh, Londra piange, ma anche Madrid non ride. Beh. L'effetto Brexit stoppa il popolo bue ignorante e rassicura l'elite degli ottimati liberali. E come all'ombra del Big Ben, si deve ricominciare. Lì si devono annullare le elezioni che hanno dato voce ai vecchiacci, agli ubriaconi, quelli che hanno fatto la bua, ai burocrati, ai giovani che non possono più andare a lavare i piatti a Londra. La democrazia, si sa, funziona a patto che il popolo non faccia di testa propria. Ricordate come in Egitto, dove non manco c'erano le elezioni. Poi sono state indette, ha vinto Morsi e siccome è risultato quello sbagliato, è stato messo immediatamente in galera e pure condannato a morte. E l'idea piace, quella di tornare indietro. E Matteo Renzi, il leader che tutto il mondo ci invidia, certo, con apposito decreto tenta di evitare agli italiani il disturbo, caro Giovanni, di andare a votare al referendum. Giusto? Questo sta lavorando a questo, ma se proprio non riesce, anche per dare un segno di buona volontà. No, però ha detto che si vota a ottobre. Sì, però sta pensando questo, perché gli scrutatori procederanno secondo questa regola. Ogni scheda recante il voto sì dovrà valere il doppio. Di converso, ogni voto per il no diventerà sì, mentre le schede bianche verranno immediatamente votate con un chiaro segno sul sì e le nulle, sempre per dare un volto alla democrazia, verranno aggiudicate al no. E però con la promessa di non sbagliare più, sottoscritta dagli elettori che sono immediatamente identificati, vadasi dal servizio di tutela elettorale, che è una novità guidata, sapete da chi? Da Marco Carrai, controllerà qualcosa. Insomma, i Podemos non poderos, il decreto ha valore retroattivo e perciò vengono considerate nulle le elezioni di Torino e quelle di Roma, con decadenza immediata di Chiara Appendino e Virginia Raggi e forse, ma il dispositivo di legge ancora non è chiaro, l'arresto immediato delle suddette per attentato all'ordine costituito. Insomma, se l'Inghilterra con la cancellazione del referendum torna all'Europa, così le due città vengono restituite a... restituita a Piero Fassino e, nel caso specialissimo di Roma, non a Roberto Giachetti, che ormai è smarrito tra le spiagge dell'abbandono, quelle di Pessoa, ma a Matteo Orfini, commissario del PD e dunque titolare del partito unico dell'elite dell'establishment. Insomma, per dirla tutta, Giorgio Napolitano cosa ha detto? Che è stato imprudente fare votare i britannici. E Gennaro San Giuliano, il vice direttore del TG1, giustamente ha fatto notare: ai tempi suoi si faceva come in Ungheria, si mandavano i carri armati. Ma la risposta, ve lo dico dal cattiverio, è una sola: sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do. È ancora una bolla, Mario? Ma più che altro facciamo un aggiornamento di mercato. Sì. La borsa tenta il rimbalzo, come si sperava, vediamo un po' come va il corso della giornata. Comunque fa più 3,2, soprattutto con i bancari che vanno meglio, ma sapete, insomma, perché si sta profilando un intervento dello Stato nel capitale delle banche, poi vediamo in che forma, maniera, eccetera. Certo. Quindi, insomma, il mercato crede che si arriverà verso una soluzione, forme di nazionalizzazione, diciamo, con forme di aiuto che cercano di far superare il momento, come vogliamo. Poi naturalmente tutto in un quadro di regole europee, vediamo cosa succede. Vabbè. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci ha scelto stamattina? Oggi una canzone per chi è col cuore fuori strada e non vuole piantare alcuna bandiera. A noi, ragazzi dell'Europa, Gianna Nannini. Tu che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Ragazzo dell'Europa, tu non perdi mai la strada. Tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, selvaggio, trovi sempre un passaggio per...